Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Se del mondo non facesse parte un'ignobile razza di ingrati che condividono la vostra prosperità finché dura, ma perfino quando si sono appena rimpinzati di selvaggina e borgogna parlano male di voi che avete generosamente pagato per il festino, sarei sicuro di aver meritato un buon nome e un'alta reputazione, almeno in Irlanda, dove la mia generosità era senza limiti e lo splendore della mia dimora e dei miei ricevimenti non aveva pari in tutta la nobiltà di allora. Finché durò la mia magnificenza, tutto il paese era libero di prendervi parte. Avevo nella scuderia cavalli da caccia, sufficienti per mettere in sella un reggimento di dragoni, e nelle cantine tante botti di vino da sbronzare per anni intere contee. Castle Lyndon divenne il quartier generale di decine di gentiluomini bisognosi. E io non andavo mai a una partita di caccia senza avere al mio seguito una dozzina di giovanotti del miglior sangue del paese come servitori e palafrenieri. Mio figlio, il piccolo Castle Lyndon, era un vero principe. La sua educazione e i suoi modi mostravano già a quella tenera età che era degno delle due nobili famiglie da cui discendeva. Non saprei dire che limiti avessero le speranze che riponevo in lui. Mi lasciavo andare a mille tenere previsioni sui suoi futuri successi e sulla figura che avrebbe fatto nel mondo. Ma il fato crudele aveva stabilito che non lasciassi dietro di me nessuno della mia stirpe e decretato che finissi la mia carriera così come ora la vedo chiudersi. Povero, solo e senza figli. Avrò avuto i miei difetti, ma nessuno oserà dire di me che io non sono stato un padre buono e tenero. Amavo appassionatamente quel ragazzo. Forse con una parzialità cieca non gli negavo nulla. Sarei stato contento, contentissimo, lo giuro, di morire se questo fosse servito a stornare la sua sorte prematura. Credo che non sia passato un giorno da quando l'ho perduto, senza che il suo viso allegro e il suo bel sorriso si chinassero su di me dal cielo, dove è ora, e il mio cuore si tendesse verso di lui. Quel dolcissimo bambino mi fu tolto all'età di 9 anni, quando era nel pieno della bellezza e colmo di promesse. E tanto potente la sua presa sulla mia memoria che non mi è mai riuscito di dimenticarlo. Il suo piccolo spirito mi perseguita nelle mie notti senza riposo sul cuscino solitario e molte volte nelle compagnie più folli e sfrenate, mentre gira una bottiglia e risuonano canti e scoppi di risa, io me ne sto a pensare a lui. Ho ancora appesa al petto una ciocca dei suoi morbidi capelli bruni. Mi accompagnerà nella fossa dei poveri, sempre spoglia di onori, dove certamente saranno presto deposte le ossa vecchie e logore di Barry Lyndon. Il mio Brian era un ragazzo incredibilmente vivace e coraggioso, e come avrebbe potuto essere altrimenti, data la sua stirpe, insofferente persino del mio controllo, contro cui quel caro birichino si ribellava spesso e con passione. Tanto più, dunque, doveva ribellarsi alla sorveglianza della madre e delle donne, facendosi beffe dei loro tentativi di guidarlo. Mia madre stessa, Mrs. Barry della casa dei Lyndon, così si faceva chiamare ora quella buona creatura in omaggio alla mia nuova famiglia, era del tutto incapace di tenerlo a freno. E da questo potete immaginare che forza di volontà avesse il piccolo. Se non fosse stato per questo, forse sarebbe ancora vivo oggi, sarebbe... Ma perché lamentarsi? Non si trova forse in un luogo migliore? E a che potrebbe servirgli l'eredità di un mendicante. È meglio così, dunque. E che il cielo ci assista. È meglio che io, suo padre, sia stato lasciato qui a piangerlo. Fu nel mese di ottobre. Ero stato a Dublino per incontrare dal mio avvocato un signore di larghi mezzi, venuto in Irlanda per discutere con me certe mie vendite e il taglio del legname di Acton. Dato che odiavo quel posto e avevo un gran bisogno di denaro, ero deciso ad abbatterne gli alberi fino all'ultimo fuscello. Ma c'era stato qualche intoppo nella faccenda. Si diceva che io non avessi alcun diritto di toccare quelle piante. Nei rozzi paesani che vivevano nelle mie terre era stato instillato un tale odio contro di me che quei farabutti rifiutarono addirittura di dare un solo colpo d'ascia agli alberi. E il mio amministratore, quel mascalzone di Larkins, asserì che se avesse tentato un'ulteriore spoliazione, la chiamavano così, della proprietà, a restare tra di loro avrebbe corso pericolo di vita. Inutile dire che a quell'epoca ogni pezzo della splendida mobilia del castello era stato venduto. Quanto alle suppellettili d'argento e d'oro, naturalmente avevo avuto cura di portarle via con me e ora erano state riposte nel luogo più sicuro. Le aveva in custodia il mio banchiere. Con quella garanzia mi aveva prestato 6.000 sterline che mi tornarono ben presto utili. Andai dunque a Dublino per incontrare l'uomo d'affari inglese e tanto bene mi riuscì di persuadere questo Splint, grande costruttore navale e mercante di legname, dei miei diritti sul legname di Acton, che lui accettò di pagarmelo in contanti, circa un terzo del suo valore, e mi mise subito davanti più di 5.000 sterline. In quel periodo ero oberato dai debiti e fui ben lieto di accettare. Lui non ebbe certo difficoltà ad abbattere gli alberi. Prese con sé un reggimento di maestri d'ascia e segantini dai suoi cantieri e da quelli del re a Plymouth. E nello spazio di 2 mesi, Acton Park era spoglio come la palude di Allen. Ma quella maledetta spedizione e quel dannato denaro mi portarono solo sfortuna. Persi la maggior parte dei soldi in 2 nottate di gioco al Delis e così i miei debiti rimasero esattamente al punto in cui li avevo lasciati. Ancora prima che la nave che portava quella vecchia lenza del mio mercante di legname salpasse per Holyhead, di tutto il denaro che avevo avuto da lui mi avanzavano solo 200 sterline circa. Con queste me ne tornai a casa molto sconsolato e anche molto alla svelta, perché i miei fornitori di Dublino erano sulle mie tracce. Avevano sentito dire che avevo già speso la somma ricevuta e 2 dei mercanti di vino possedevano mandati d'esecuzione contro di me per qualche migliaio di sterline. Tuttavia, a Dublino, acquistai, come avevo promesso, e quando io faccio una promessa, la mantengo a costo di qualsiasi sacrificio, un cavallino per il mio caro piccolo Brian. Doveva essere un regalo per il suo 10° compleanno, che era imminente. È una gran bella bestiola e mi costò anche una bella somma. Quando si trattava di quel caro bambino, non avevo mai badato a spese. Ma il cavallo era molto focoso. Tirò un calcio a uno dei miei garzoni di stalla, il primo a cavalcarlo, e gli ruppe una gamba. Nel viaggio di ritorno mi presi cura io dell'animale, ma erano solo il mio peso e la mia abilità a tenere calma quella bestiaccia. Quando arrivammo a casa, mandai il cavallo con uno dei miei staglieri da un fittavolo, perché venisse domato come si deve, e dissi a Brian che sarebbe arrivato per il suo compleanno e che per quel giorno lui l'avrebbe portato a caccia insieme ai miei segugi. Mi ripromettevo una non piccola gioia nel presentare allora il mio ometto agli altri cacciatori. Speravo già di vederlo una volta o l'altra condurre la caccia al posto del padre che tanto lo amava. Povero me! Quel ragazzo coraggioso non doveva mai galoppare in una caccia alla volpe. e non avrebbe mai occupato, tra la nobiltà del suo paese, quel posto che per nascita e per carattere gli era stato assegnato. Io non credo nei sogni e nei presagi, però non posso negare che un uomo su cui incombe una grande catastrofe si imbatte spesso in molti strani e terribili segni premonitori. Mi sembra ora di averne avuti parecchi. Lady Lyndon sognò addirittura due volte la morte di suo figlio, ma dato che ormai era diventata particolarmente nervosa e malinconica, respinsi con disprezzo i suoi timori, e così pure i miei. È chiaro. Ma in un momento di distrazione, mentre bevevo la mia bottiglia dopo pranzo, dissi al povero Brian, che mi tempestava di domande sul cavallino e sulla data e sull'ora del suo arrivo, che era già arrivato. Era alla fattoria e Nick lo stagliere lo stava domando. «Promettimi, Brian», esclamò sua madre, «che non monterai quel cavallo se non in presenza di tuo padre». Ma io dissi soltanto «Bah, signora, siete proprio una stupida!» perché ce l'avevo con le sue ridicole paure che a quell'epoca saltavano fuori di continuo in mille forme e tutte irritanti. Poi mi rivolsi verso Brian e gli dissi «Prometto a vostra signoria una bella sterzata se lo cavalcate senza il mio permesso. Immagino che a quel povero ragazzo non importasse di pagare lo scotto del piacere che lo attendeva, o forse pensava che un padre affettuoso come me gli avrebbe addirittura condonato il castigo. Fatto sta che la mattina dopo, quando mi alzai, piuttosto tardi, perché la notte prima avevo fatto tardi a bere, scoprì che il bambino era uscito all'alba, scivolando di soppiatto attraverso la stanza del suo precettore. Era Redmond Quinn, un nostro cugino che avevo preso in casa con noi. Non dubitai nemmeno per un istante che fosse andato alla fattoria. Presi con me un grosso frustino e gli galoppai dietro furioso, giurando fra me e me che avrei mantenuto la mia promessa. Ma che il cielo mi perdoni, la dimenticai del tutto quando a 3 miglia da casa vidi venirmi incontro una triste processione. Contadini che gemevano e gridavano, come si fa da noi in Irlanda. Il cavallo nero condotto per la cavezza e, sul battente di una porta che alcuni di loro si erano caricati in spalla, il mio povero caro, il mio carissimo bambino, stava disteso lì con i suoi stivaletti e gli speroni e la giacchettina scarlatta ornata d'oro. Il suo caro visino era tutto bianco. Lui sorrise porgendomi la mano e disse a fatica: «Non mi frusterai, vero papà?» Per tutta risposta non potei che scoppiare in lacrime. Ne avevo visti morire di uomini. Hanno tutti negli occhi uno sguardo inconfondibile. C'era un piccolo tamburino a cui io volevo molto bene, che fu abbattuto mentre si trovava in testa alla mia compagnia. Quando corsi da lui a dargli un po' d'acqua, aveva esattamente lo stesso aspetto che aveva ora il mio caro Brian. Con quello sguardo terribile non ci si può sbagliare. Lo portammo a casa e setacciammo le campagne in cerca di dottori che venissero a visitarlo. Ma che vale un dottore contro la cupa, invincibile nemica? Quelli che vennero poterono solo dar conferma alla nostra disperazione con i loro responsi sul povero bambino. Era montato a cavallo con grande sprezzo del pericolo. Era rimasto coraggiosamente in sella mentre l'animale continuava a sparare calci in aria. E una volta sopraffatte le prime bizze, aveva cercato di fargli saltare una siepe che costeggiava la strada. Ma là, in cima, c'erano delle pietre smosse, uno zoccolo del cavallo c'era rimasto incastrato, e lui e il suo piccolo audace cavaliere erano rotolati giù insieme dall'altra parte. La gente disse di aver visto quel nobile ragazzino balzare in piedi dopo la caduta e correre a riprendere il cavallo che si era allontanato da lui. Ma a quanto pare l'animale, quando ancora erano tutti e due a terra, gli aveva tirato un calcio sulla schiena. Il povero Brian fece di corsa pochi passi, Poi cadde, come colpito da una fucilata. Un pallore gli coprì il viso. Credettero che fosse morto. Quando gli versarono del whisky giù per la gola, il povero bambino riprese i sensi. Ma non riusciva ancora a muoversi. Era stata lesa la spina dorsale. E quando a casa lo misero a letto, la metà inferiore del corpo era come morta. Anche il resto non durò a lungo. Che Dio mi aiuti. Rimase tra di noi ancora per 2 giorni. Ed era un ben triste conforto pensare che non soffriva. In queste ore il carattere di quel caro angelo sembrò cambiare completamente. Chiese perdono a me e a sua madre per qualsiasi atto di disobbedienza commesso contro di noi. Ripeté spesso che gli sarebbe piaciuto vedere suo fratello Ballington. «Pally era migliore di te, papà», disse. «Non bestemmiava come te e mentre eri via mi raccontava e mi insegnava tante cose buone». E prendendo la mano di sua madre e la mia nelle sue manine sudate, ci pregò di non litigare, ma di amarci invece. Così ci saremmo incontrati di nuovo in paradiso. Bally gli aveva detto che la gente che litiga, lì, non ci finisce mai. Sua madre fu molto colpita dagli ammonimenti usciti dalla bocca di quel povero angelo sofferente. E lo fui anch'io. Vorrei che lei mi avesse consentito di seguire i consigli che il bambino ci diede morendo. Alla fine, dopo 2 giorni, morì. Giaceva lì la speranza della mia famiglia, l'orgoglio della mia virilità, l'anello che aveva tenuto insieme me e Milady Lyndon. «Redmond mio», disse lei inginocchiandosi accanto al corpo di quel dolcissimo bambino, «ti prego, diamo ascolto alla verità uscita dalle sue labbra benedette. Correggi la tua vita e la tua povera moglie che ti ama teneramente. Trattala come ti ha ordinato il suo bimbo in punto di morte». E io dissi che l'avrei fatto. «Ma ci sono promesse che a un uomo è impossibile mantenere, specialmente con una donna come lei». Tuttavia, ci riavvicinammo dopo quel triste evento e per molti mesi andammo più d'accordo. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.